GR Europa. È improbabile che l'Europa registri miglioramenti socio-economici nel 2013, a meno che non faccia maggiori progressi nella risoluzione credibile della crisi, trovi risorse per gli investimenti necessari e faccia funzionare l'economia reale. È l'allarme del commissario UE agli affari sociali, Laszlo Andor, ieri a Bruxelles. Poi sull'IMU, per essere più equa ed avere un effetto redistributivo, deve essere modificata in senso più progressivo. Il servizio di Sergio Nava. Arrivano dall'Europa indicazioni chiare per le modifiche all'IMU. Può diventare più equa per avere un effetto redistributivo, ma a tal fine deve essere modificata in senso più progressivo. È un giudizio in chiaroscuro quello che la Commissione dà della controversa tassa sulla casa all'interno del rapporto su sviluppi sociali e occupazione. Bruxelles dedica un intero box al caso IMU, riconoscendone pure alcuni pregi. Ad esempio la deduzione di 200 euro per la prima casa, le deduzioni supplementari per i figli a carico, nonché una marcata differenziazione del tasso di imposizione tra prima e seconda casa. A Radio 24 il portavoce della Commissione Jonathan Todd ha confermato che Bruxelles non intende fare commenti o pronunciare giudizi diretti sull'IMU. Todd ha precisato che il testo del rapporto non rappresenta una raccomandazione all'Italia, ma costituisce piuttosto un'analisi sul caso all'interno di un ragionamento su come spostare la tassazione dal reddito da lavoro verso altri settori a minor impatto sociale sui meno abbienti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la risposta di Mario Monti. La prima notizia è che l'Unione Europea prende atto che l'Italia ha fatto quello che l'Unione Europea aveva domandato. Poi apprezza alcuni aspetti della specifica forma di IMU adottata, e cioè che sono stati introdotti alcuni aspetti di equità, per esempio la deduzione di 200 euro, eccetera, eccetera. E poi dice altri aspetti potrebbero essere migliorati, come l'aumento della progressività. L'Italia viola i diritti dei detenuti tenendoli in celle dove hanno a disposizione meno di 3 metri quadrati. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia per trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nel carcere di Busto Arsizio e di Piacenza. Nella sentenza la Corte invita l'Italia a porre rimedio entro un anno al sovraffollamento carcerario. Allora sentiamo Donato Capece, segretario generale del SEPPE, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, al microfono di Maria Luisa Pezzali. È chiaro che siamo fuori legge, che l'amministrazione è fuori legge, perché non può tenere le carceri in queste condizioni. Da un lato la polizia penitenziaria che soffre questo pesante sovraffollamento, dall'altra parte i detenuti che, altro che in socializzazione, sono in pratica, considerate dei numeri, ammassati uno sopra l'altro. È una gestione fallimentare. Il capo dipartimento, il dottor Tamburrino, e il suo vice capo, il dottor Pagano, devono dimettersi se hanno un po' di coraggio. Nel 2014 sarà più facile per chi vive in un paese diverso da quello di cittadinanza candidarsi alle elezioni europee. Il Consiglio dei Ministri UE ha adottato una proposta della Commissione per la semplificazione della normativa, che ha già ricevuto l'approvazione dell'Eurocamera. E con questo è tutto, un saluto da Gigi De Donelli e da Pietro Lacorte in regia. L'appuntamento con GR Europa torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.